allora io darei inizio alla nostra presentazione, vi ringrazio di essere così numerosi, sono giornate difficilissime perché questi due anni di Covid hanno fatto in modo che adesso si parta di nuovo con tantissime iniziative, quindi ogni giorno gli appuntamenti sono molteplici, sono invitanti e quindi è sempre una dura lotta a capire e scegliere dove andare. Quindi il fatto che siate venuti qui in biblioteca a noi fa tanto piacere, la biblioteca è in una fase di ricostruzione dei rapporti perché questi due anni sono stati difficili anche per noi, abbiamo questo slogan Back to the Library perché vogliamo tornare di nuovo tra gli scaffali, vederci, ricostruire insieme anche un modo di fare cultura, di confrontarsi e insomma di aprire nuovi orizzonti anche nella nostra crescita personale. Questo mi porta a ringraziare tantissimo anche Andrea Di Michele, che è uno storico di chiara fama, nazionale, internazionale, ci aiuta tantissimo nel nostro lavoro anche di conoscenza del territorio e della storia, che è sempre un argomento molto affascinante, ma anche difficile da trattare da un punto di vista anche scientifico per noi e quindi è facile approcciarsi in maniera non sempre, non dico corretta, ma precisa. Ecco, questo sì, mi piacerebbe trovare un modo per fare la storia anche in maniera più scientifica, più accademica e questo è di sicuro un tema, un argomento che questa sera affronteremo con la nostra ospite che appunto è qui con noi, la professoressa Gabriella Gribaudi che... No, perdon, ho sbagliato tutto. Roberta Becker, ecco, guarda, mi hanno dato il bacetto sbagliato, ci ho guardato perché? Ho già visto questo film con il libro La ricerca sul colonialismo e quindi il discorso, il ponte che c'è appunto tra le Alpi e l'Africa. Abbiamo preparato qui per voi una vetrina con alcuni libri che abbiamo fatto già vedere alla professoressa Berger che viene dagli Stati Uniti ed è arrivata qui a Bolzano e le chiedevo come è arrivata fino agli Stati Uniti. Poco fa appunto ci raccontavamo di questo percorso lunghissimo che ha fatto, questo giro enorme. E qui abbiamo dei libri, abbiamo scovato proprio in questo periodo in attesa dell'arrivo della professoressa Berger una collezione che viene da un fondo, il fondo Steiner, e sono tutti libri dedicati al colonialismo, in particolare al colonialismo in Africa da parte degli italiani, quindi c'è una raccolta molto interessante, chi poi fosse curioso in futuro può venire a vedere, a consultare questi libri, ma soprattutto questa sera partiamo appunto col libro della professoressa Berger, con l'aiuto del professor Andrea Di Michele e soprattutto con l'introduzione della presidente Lunet dell'associazione Storia e Regione che è qui con noi questa sera e che ringrazio, oltre a ringraziare Michela Oberhuber con cui ci siamo sentite e scambiate tante mail in questi due anni di fermo, vero? Ecco, si riparte, grazie allora anche a lei presidente e grazie a voi tutti, buona serata. Grazie e un brevissimo saluto anche da parte mia, sono molto contenta di assistere finalmente alla presentazione di questo importante libro, dico finalmente perché appunto l'organizzazione di questa presentazione è stata un poco travagliata tra il Covid e insomma il fatto che l'autrice vive e lavora negli Stati Uniti, quindi non è così semplice, insomma non è stato così semplice, ma finalmente sono felice di assistere a questa presentazione di questo importante libro che è stato pubblicato originariamente in inglese dalla Cambridge University Press nel 2018 e poi pubblicato in versione italiana dalla prestigiosa casa editrice Viella, anche grazie al sostegno di Città Region, Storia Regione, con il titolo Dalle Alpi all'Africa, la politica fascista per l'italianizzazione delle nuove province 1922-1943. Dicevo che è un libro importante perché, insomma, tra i suoi vari meriti c'è quello di collocare le vicende dell'Alto Adige nel corso del ventennio fascista, quindi l'italianizzazione forzata avvenuta anche attraverso l'immigrazione di persone dalla penisola italiana. Ecco, colloca le vicende dell'Alto Adige all'interno di un quadro internazionale, politico e culturale molto più ampio, e le mette in relazione con quanto avveniva nella penisola italiana, ma anche con quanto avveniva altrove, quindi con la politica colonialista e imperialista di Mussolini in Africa, mettendo quindi in luce, diciamo, da un lato le peculiarità di questa regione durante il ventennio fascista, ma anche in un certo senso ridimensionando, quantomeno rileggendo e reinterpretando queste peculiarità da una prospettiva più ampia, più complessa e quindi per forza di cose anche più equilibrata in un certo senso. Ma passo senz'altro la parola ai due relatori. Prima di tutto vorrei presentarli brevemente, anzitutto l'autrice, Roberta Perger, che è nata e cresciuta a Bressanone, ma come ricordavamo prima lavora e vive negli Stati Uniti, è professoressa associata di storia contemporanea all'Indiana University e ha pubblicato numerosi saggi sul fascismo, sull'imperialismo coloniale italiano, sulle politiche di popolamento nel periodo tra le due guerre e attualmente è impegnata in un progetto di ricerca sulla cittadinanza e la sudditanza durante il fascismo e anche socia di Storia Regione. Del libro di Roberta Perger parlerà in dialogo con l'autrice Andrea Di Michele, anche di socio di Storia Regione, professore associato di didattica della storia presso la Libera Università di Bolzano, esperto di storia del fascismo, di politiche coloniali fasciste, di prima guerra mondiale, di storia regionale del XX secolo, temi ai quali ha dedicato numerosissime pubblicazioni. Tra le più importanti vorrei ricordare, almeno insomma, tra le più importanti e le più recenti, la monografia Tra due divise, la grande guerra degli italiani d'Austria, pubblicato dalla Terza, e anche traduzione tedesca per Böhlau, se non erro. Mm-hmm. Ecco, e lascio dunque la parola ad Andrea Michele, prego. Grazie. Bene, grazie intanto per chi ha organizzato questa presentazione, appunto la Biblioteca Claudio Augusta e Storia Regione, Geschichte und Region. E anch'io mi associo, diciamo, con la soddisfazione di essere riusciti finalmente a presentare questo libro, perché è un po' che ci si provava, no? E non è l'unico, diciamo, libro che è stato sacrificato negli ultimi anni in termini di diffusione di presentazioni pubbliche. E allora, io e Roberta abbiamo così deciso di presentare questo libro con un dialogo molto libero e anche un po' improvvisato, no? Diciamo così, e quindi non ci sarà una relazione, tra virgolette, da parte mia e poi una presentazione da parte sua, ma più che altro così delle domande, degli stimoli e una discussione, un confronto su questo libro sicuramente importante e poi per lasciare spazio eventualmente molto volentieri a delle domande da parte del pubblico. E allora, come è stato detto, questo libro si basa e propone una comparazione abbastanza inusuale, no? Nella storiografia, e cioè una comparazione tra le aree di confine, in particolare l'Alto Adige, ma non soltanto, anche l'area di confine del cosiddetto confine orientale, e i domini africani, in particolare la Libia. E la cornice temporale ovviamente è quella del periodo fascista, e al centro di questa comparazione vi è una tematica circoscritta ma fondamentale, ma molto importante, che poi si dirama in tutta una serie di altre tematiche, che è quella della colonizzazione e quindi dell'occupazione dello spazio agricolo, della conquista del suolo, così spesso veniva definita, come strumento, e vedremo bene adesso nel dettaglio di che cosa, vedremo appunto qual era la finalità di questi processi e di questi progetti di colonizzazione agricola, cioè finalità, come vedremo, che vanno ben al di là di quella di coltivare territorio più o meno incolto, più o meno lasciato libero. Ecco, è stato già accennato tra le varie cose un merito importante di questo libro, secondo me, è quello di essere, come dire, riuscito a superare così una barriera che molto spesso si ritrova nella storiografia che si occupa di questioni regionali, no? E cioè la molta parte della storiografia del nostro territorio, sul nostro territorio, ha una caratterizzazione molto locale, molto regionale, molto provinciale, insomma molto legata al territorio. Ecco, ciò ovviamente non avviene in un volume scritto da una docente che insegna e studia negli Stati Uniti, e quindi vi è stato sicuramente il superamento di questa difficoltà a togliere, diciamo così, o meglio a inserire la storia del territorio in un dibattito storiografico più ampio, in un dibattito storiografico di carattere internazionale, che trae degli spunti importanti anche dal punto di vista metodologico, i cosiddetti border studies, ma anche approccio sulla storia orale, e l'approccio molto forte della comparazione, quindi la comparazione tra fascismo, fascismi, tra regimi coloniali. Ecco, e questo è sicuramente, diciamo così, uno dei meriti, secondo me, principali di questo volume, su cui, prima di iniziare questo dialogo, vorrei dire due cose molto brevi, una, diciamo, sull'autrice e una sul libro in sé. Sull'autrice è stato detto questo profilo biografico e culturale molto particolare, no? Diciamo così, no? Molto speciale, se vogliamo, e cioè una persona nata e cresciuta qui e che quindi conosce molto bene questo contesto locale, conosce perfettamente le due lingue e che ha una formazione invece americana, una formazione accademica completamente costruita negli Stati Uniti in diverse sedi universitarie. E questo effettivamente, queste due caratteristiche o più caratteristiche rappresentano indubitabilmente degli elementi di forza evidentissimi nell'autrice e nel suo lavoro. E poi la seconda cosa che volevo dire, e poi passiamo appunto a interrogare, diciamo così, l'autrice sul libro in sé, è che si fonda su un impressionante lavoro di ricerca sulle fonti, ecco, cosa che non è sempre e che non è banale, che non è scontata, e cioè vi è un'analisi, uno studio di fonti archivistiche e di varia natura, a Roma in primo luogo, e poi gli archivi locali, e poi anche l'utilizzo di fonti orali. Quindi vi è dietro un'ossatura, oltre a questa forza, diciamo, questa solidità metodologica, ma vi è poi un lavoro, diciamo così, il lavoro sporco fatto negli archivi c'è in abbondanza, cosa che devo dire, non voglio dire che sempre meno si trova, però in molti casi, ecco, si trovano dei lavori magari molto solidi dal punto di vista dell'elaborazione metodologica, però non altrettanto solide dal punto di vista dello scavo archivistico sulle fonti. Ecco, questo non è assolutamente il caso, per cui questo è indubbiamente un libro importante che sono molto contento che sia stato tradotto in italiano, ed è sicuramente un libro che, come dire, durerà nel tempo per la storiografia non soltanto regionale, come detto prima. Allora, la prima questione che vorrei porre all'autrice è questa, e cioè, per capire un po' il senso di questa comparazione, no? Inusuale, se vogliamo, no? Tra Libia e nuove province, probabilmente dobbiamo partire proprio dal particolare contesto post-bellico, post-prima guerra mondiale, in cui si avvia questa politica e che poi appunto si inserisce compiutamente all'interno del ventennio fascista. E cioè in questo nuovo, diciamo, spirito internazionale dopo la prima guerra mondiale, intorno al tema delle rivendicazioni diffuse per i diritti dei popoli, delle minoranze, ecco, perché questo contesto, questi discorsi, questi temi e queste rivendicazioni sono importanti per l'Italia fascista e perché questo poi riguarda concretamente il tema della colonizzazione agricola. Vi ringrazio innanzitutto per essere venuti questa sera ad ascoltare la nostra conversazione. Uso il microfono perché ho la voce un po' debole, quindi spero che mi sentiate anche in ultima fila. E vorrei iniziare innanzitutto ringraziando Andrea per la partecipazione a questo evento, ma anche per tutti gli scambi che abbiamo avuto da molti anni. Andrea l'ho conosciuto quando ancora lavorava all'archivio provinciale e quindi insomma ci conosciamo da molto tempo e anche per questo motivo sono molto contenta che siamo qui assieme per questa sera a parlare del mio libro. Però vorrei anche ringraziare l'associazione Storia e Regione di Geschichte und Region e soprattutto Michela Oberhuber che sta qui con noi stasera, perché senza la sua tenacia, pazienza e veramente insomma, l'impegno costante per un periodo abbastanza lungo, insomma, questo libro in italiano non esisterebbe. Quindi sono veramente molto molto grata a Michela. Per iniziare a rispondere alla tua domanda, Andrea, vi racconto una piccola storia. Nel 1926 Mussolini fece un'intervista con un giornalista tedesco e siccome appunto era un giornalista tedesco era molto interessato a cosa stesse succedendo in Alto Adige, no? E in Alto Adige nel 1926 non si insegnava più la lingua tedesca a scuola, perché dal 23 in poi, con la riforma Gentile, in tutta l'Italia l'insegnamento era esclusivamente in italiano, no? E insomma diciamo che questa era una politica nazionale ma con delle ramificazioni enormi in Alto Adige, perché la maggior parte della popolazione era comunque di lingua tedesca o ladina e si ritrovava ora a frequentare le scuole e gli asili in italiano. E questo giornalista, che comunque era anche una persona informata sulla situazione internazionale, disse a Mussolini: ma com'è possibile che voi in Alto Adige proibite la lingua tedesca mentre in Libia i bambini vanno a scuola araba, no? E so, questa intervista, questa domanda diciamo, mi ha un po' colpito, perché ma com'è che questo giornalista fa questa domanda? E mi sono chiesta: ma l'ha fatta in malafede un po', perché comunque la Libia era una colonia italiana, l'Italia aveva invaso la Libia già nel 1911, quindi periodo prefascista, l'aveva diciamo conquistata e considerata colonia italiana da un decennio, quando poi il fascismo viene al potere nel 22. E qui, 4 anni dopo, la dittatura instaurata, Mussolini si ritrova a dover rispondere a questa domanda. E mi sono resa conto che, secondo me, un po' in malafede questa domanda gliel'ha fatta il giornalista Mussolini, perché sicuramente era consapevole che in una provincia, a questo punto l'Alto Adige ancora faceva parte della Venezia Tridentina, non era una provincia a sé stante, ma diciamo una regione che fa parte della nazione, vigono leggi diverse, c'è un approccio diverso, mentre una colonia viene governata in un tutt'altro modo, no? E quindi il fatto che in una provincia, cioè in una regione italiana, si proibisse l'insegnamento in altre lingue poteva starci, perché in fin dei conti l'idea chiave che era emersa nel primo dopoguerra era questa idea della nazione omogenea, cioè la sovranità, l'unità di uno Stato era basata su questa unità linguistica, culturale, ma anche etnica, e quindi questa idea delle nazioni come unità omogenea era molto forte, e da quel punto di vista lì questa politica fascista dell'italianizzazione, dell'insistere sulla lingua italiana aveva un certo senso, diciamo. Non la sto giustificando, sto solo dicendo come rientra in un certo ambito politico internazionale. Mentre la Libia era una colonia e le colonie vanno governate diversamente. cioè proprio l'idea di un impero coloniale è quello delle differenze, è l'idea che ci sono popolazioni diverse che hanno una loro posizione nella gerarchia sociale, che generalmente è appunto di molto inferiore a quello dei colonizzatori. Quindi lasciare che questa popolazione parlasse la sua lingua rientrava, diciamo, negli schemi di come si governa una colonia. Mussolini, nel rispondere alla domanda, insomma, evita, dice: ma no, ma c'è comunque il tedesco ancora nell'insegnamento religioso, è permesso e ci sono delle scuole tedesche, in effetti delle scuole private ancora, insomma, c'erano. Il tedesco nell'insegnamento religioso veniva ancora usato. Insomma, Mussolini devia, evita, però secondo me questa piccola vignetta, diciamo, secondo me inizia già a farci capire innanzitutto il modo in cui alcune persone rapportavano le due realtà geografiche l'una con l'altra, però anche il modo in cui erano anche molto diverse tra di loro. E appunto c'è proprio questa idea anche di questo, secondo me si intravede anche l'idea dei principi, delle idee fondamentali che emergono già durante la Grande Guerra, ma soprattutto anche con i trattati di pace dopo la guerra a Parigi, dove appunto emerge questa idea della nazione omogenea, appunto l'idea di un mondo governato da nazioni, però comunque era sempre anche un'idea contraddittoria, perché non c'era paese, non c'era nazione in Europa che non avesse al suo interno delle minoranze, ed ecco che appunto nasce in questo contesto il concetto della protezione delle minoranze. È anche un periodo in cui, e questa è un'altra argomentazione fondamentale del mio libro, è anche un periodo in cui il dominio coloniale viene sfidato, cioè non è più un'idea ovvia che ci siano questi imperi coloniali. Dopo la prima guerra mondiale sia le popolazioni sia i colonizzatori, cioè i bianchi in Australia, in Nuova Zelanda, in Canada, ma anche i colonizzati che avevano partecipato a questa guerra, sia come soldati ma anche come appunto lavoratori, come forza lavorativa, come risorse per l'impero europeo, chiedono autonomia, chiedono indipendenza, e quindi questa idea di un impero coloniale è messa in discussione. E qui appunto, spero di dimostrare nel mio libro, il fascismo cerca una risposta a questa crisi del colonialismo, e la sua parte della sua risposta è appunto, sono appunto queste politiche di colonizzazione, ma colonizzazione nel senso proprio di insediamento di popolazione, e popolazione che lavora la terra e che diventa proprietaria di questa terra. Allora ti faccio una domanda un po' provocatoria, anche sulla base di quello che hai detto tu. No? Cioè, tu hai detto molto chiaramente che c'è una differenza profonda tra i due contesti, no? Sì. Tra il contesto delle nuove province, diciamo così, cioè delle aree di confine, e il contesto coloniale. Noi sappiamo che il livello di violenza, di discriminazione, di segregazione, no? Anche, noi sappiamo che nelle colonie si costruiscono dei quartieri separati per le popolazioni indigene e per le popolazioni dei coloni, degli italiani. Sappiamo che e vi è una politica molto chiara e molto gerarchica sulla cittadinanza, no? Queste persone, i sudditi coloniali, appunto, non ricevono la cittadinanza italiana. Vi sono però delle varie sottospecie differenti, diciamo, di cittadinanze di diverso tipo. Ecco, tutto questo, nonostante l'italianizzazione violenta che si ha, è difficilmente paragonabile con quanto avviene nei confronti della popolazione di lingua tedesca, e poi magari parleremo della popolazione di lingua croata e slovena, che sono anche un'altra cosa ancora, no? Ecco, la mia domanda è: ma sono davvero comparabili questi casi? Perché tu stessa nel libro, e lo hai fatto anche adesso, in più occasioni sottolinei questa profonda differenza. Sì. Per rispondere alla tua domanda, che è ottima, voglio fare un quadro un po' più generale. Cioè, la comparazione, secondo me, può avere vari fini. Io posso comparare due cose per dire: ah, qua c'è una differenza, qua c'è una similitudine, e mi fermo lì. Però posso anche fare un lavoro comparato e, diciamo, una contrapposizione tra due realtà che hanno delle similitudini e delle differenze, per poi comunque fare un discorso più ampio, per da questi due contesti essere in grado di fare comunque un'argomentazione più ampia. Il mio intento era quello di guardare le zone di confine aggregate all'Italia, annesse dall'Italia dopo la prima guerra mondiale, quindi la Venezia tridentina e appunto la Venezia Giulia con Istria, Trieste, insomma la zona che solitamente viene chiamata il confine orientale. Ho voluto appunto studiare il modo in cui il fascismo, diciamo, si comporta in queste zone, con il modo in cui si comporta in Libia in particolare. Mi soffermo poco sull'impero, diciamo, sull'Africa orientale, perché insomma è comunque un progetto molto limitato. L'Italia invade l'Etiopia nel 1935, e nel 1941 insomma ne perde il controllo, quindi diciamo che è un impero veramente molto di una durata limitatissima, e comunque, anche se Mussolini dichiara la guerra finita nel 1936, il territorio non è mai pacificato veramente. La mia idea era quella di cercare di capire come si comporta il regime fascista nel assicurare la sovranità italiana su questi territori, perché questo, insomma, è, diciamo, un punto base del mio libro da cui parto. La mia argomentazione è che sia queste nuove zone di confine, queste nuove province, come vengono anche chiamate dal fascismo, le nuove province al nord e nell'Italia nord-orientale e la Libia, erano comunque territori contesi, nel senso che la sovranità italiana non era accettata. Non era accettata dalla popolazione, da una gran parte della popolazione locale, e quindi il fascismo deve cercare di giustificare, di legittimare la propria presenza in queste terre. E il modo in cui cerca di fare questa cosa è con l'insediamento di popolazioni italiane. E dico appunto italiane perché comunque le persone che vivevano nella Venezia Tridentina, nella Venezia Giulia, erano italiane. Come dici tu, erano cittadini italiani di pieno diritto, quindi erano italiani, però, come scriveva uno dei coloni che aveva avuto un maso dall'Opera Nazionale Combattenti sopra Merano, erano italiani che non volevano essere italiani e che ci volevano morti. Lui l'ha messa lì così. E e chiaramente anche in Libia stessa cosa, era un territorio conteso, ed oltre al fatto che la popolazione, diciamo, indigena non accettava il dominio italiano, c'era anche gli italiani stessi che la sentivano questa tensione, sia i funzionari dello Stato, i rappresentanti del regime, ma anche gli stessi coloni mandati in questi territori erano ben consci del fatto che loro comunque avevano una missione nazionale da portare avanti. E quindi sotto quel punto di vista, secondo me, la comparazione ci sta, e non solo quello, ci aiuta a capire le logiche di governo del fascismo, e lì soprattutto anche il modo in cui questa logica emerge da un contesto internazionale. Solitamente il fascismo viene rappresentato come una sfida al mondo liberale che emerge dalla guerra, no? Il fascismo non si astiene alla società delle nazioni, invade l'Etiopia, e comunque non riesce a rapportarsi con le altre potenze europee, e infine entra in un'alleanza con la Germania nazista, no? Quindi, diciamo, il fascismo italiano, il nazismo tedesco vengono visti come questi movimenti che si oppongono al mondo liberale che emerge dalla guerra. E questo è certamente vero, però è anche vero che in un certo senso questi movimenti portano alla massima espressione alcuni dei principi di questo nuovo ordine. Questo nuovo ordine era basato appunto su questa idea dello Stato-nazione, lo Stato-nazione etnico, e il fascismo questa cosa la sente fortissimo, e infatti la sente a tal punto che si rende conto che deve italianizzare la popolazione indigena, e qui ci sono diversi modi per raggiungere questo obiettivo, in modo da avere una maggioranza sul territorio che comunque crede, aderisce allo Stato italiano. Perché una delle cose che appunto emerge dalla Prima Guerra Mondiale è anche questa idea dei plebisciti, dell'autodeterminazione dei popoli. E quindi Mussolini già dagli anni, dal 19, dal 20, prima di arrivare al potere, prima di anche solo immaginarsi il potere che avrebbe avuto, parla della necessità di italianizzare queste terre in modo da stroncare l'irredentismo tedesco. Cioè l'argomentazione tedesca che dice: queste terre sono abitate da persone di lingua tedesca, etnicamente tedesche, che poi diventa poi negli anni 30 sempre più anche un discorso razziale, cioè quindi un'idea di razza, e che quindi queste persone, fino a quando si sentono tedesche, non avremo mai il controllo definitivo su questa terra. Quindi la questione, diciamo, della colonizzazione terriera è uno strumento, diciamo, per consolidare, sì, il potere su questi territori contesi. E una domanda che sorge spontanea, diciamo così: in Libia, nonostante le difficoltà, vengono inviate 20.000, sì, 20.000 italiani, no? E coloni, con una politica anche di, come dire, sottrazione di terre, certo, che vengono prese terre, non ci sono soltanto terre incolte, anzi, vengono prese le terre migliori, no? E qualcosa di simile, quel poco che si fa anche nell'Africa orientale, è molto simile a questo, no? Quindi ci sono vere e proprie deportazioni di popolazioni che coltivavano quella terra, e lì vengono sistemate migliaia e migliaia di italiani. Ecco, anche qui, questa comparazione, come la vogliamo chiamare, insomma, questo confronto con l'Alto Adige, ci spinge un po' a interrogarci su i motivi invece del fallimento di questa politica di colonizzazione dell'Alto Adige, perché qui questa colonizzazione fallisce, nel senso che abbiamo questo esempio minuscolo e unico di Sinigo, che è quasi ridicolo per le dimensioni, e poi abbiamo una manciata di masi che soprattutto negli anni 30 con la crisi economica vengono acquistati alle aste, eccetera eccetera, un totale di qualche centinaia di agricoltori italiani. Ecco, come mai questo fallimento così evidente? Vorrei iniziare nel dire che comunque anche in Libia la cosa non era semplice dall'inizio. Infatti fino al 27-28 l'Italia, come molte altre potenze coloniali, punta molto sulla colonizzazione, diciamo, a livello industriale. C'è l'idea di grandi aziende che sfruttano la manodopera locale e che quindi, insomma, si basano su quel principio di sfruttamento classico di vari colonialismi europei. Però la cosa che appunto succede negli anni 20 e che non è ben saputa è che la ribellione in Libia continua e che c'è veramente una lotta diciamo sferrata per il controllo del territorio. E l'Italia si ritrova a dover usare i metodi, diciamo, più brutali che esistono nel vincere questa ribellione della popolazione libica. E praticamente cosa finisce per fare è che rinchiude in campi di concentramento 2/3 della popolazione della Libia orientale, la Cirenaica. E parliamo di 100.000 persone rinchiuse in campi di concentramento per 2 anni. Insomma, le stime basate sulle fonti italiane ufficiali sono che il 40% di questa popolazione muore in questi 2 anni. Quindi, insomma, parliamo qui di un genocidio. Ed è solo dopo l'attuazione di questa politica che l'Italia si decide, che il regime decide di spostarsi sull'insediamento di coloni, no? Di portare famiglie, di dare la terra a queste piccole, cioè le famiglie poi non erano piccole, erano grandi, ma di dare questi appoderamenti, questi poteri a delle famiglie italiane per rendere la Libia italiana. L'idea era proprio questa: se tu porti i contadini, gli dai la terra, li vieti di venderla, li chiedi di lavorarla per 30 anni prima di dargli comunque il certificato di proprietà, li obblighi a lavorare la terra, non li lasci fare altri lavori, questi si affezionano e la terra diventa italiana. L'idea era di portare in Libia 500.000 italiani. Il progetto dei 20.000 del 1938 che ha portato, erano poi 16.000, però insomma portare queste masse di coloni in Libia era quello di fare una cosa simile per 5 anni, per portare nel lasso di 5 anni 100.000 persone e poi appunto portarne delle altre ad arrivare a 500.000. E le fonti chiaramente dicono: dobbiamo raggiungere la maggioranza o almeno una minoranza molto molto forte da fare da contrapeso alla popolazione locale, no? E quindi anche in Libia la cosa non è diciamo semplicissima dall'inizio, è solo con questi campi di concentramento che si liberano le zone più fertili, è solo dopo questa politica che alle tribù viene vietato tornare in queste zone, che questo progetto di popolamento di massa può essere avviato. Però appunto ci tengo a precisare che questa cosa è una risposta alla resistenza della popolazione locale, è una risposta a questa proprio questa involontà da parte della popolazione libica di farsi assoggettare dall'Italia. No? Quindi diciamo che chiaramente qui c'è una grandissima differenza con le zone di confine, dove non c'è una resistenza di questo tipo, non c'è questa violenza, però c'è comunque sempre questa idea di queste zone contese e di questa necessità di affermare la presenza italiana. In Alto Adige specificatamente, ma comunque è vero anche per l'Istria e per la parte della Gorizia che insomma viene annessa, non ci sono gli spazi, non ci sono le opportunità di estradire questi spazi molto grandi in modo da portare coloni italiani in queste quantità. Però comunque vari nazionalisti, sia in Alto Adige ma anche a Trieste, continuano a insistere su questa necessità di conquistare il suolo, di controllare la proprietà agricola e di portare coloni italiani. Gli sforzi sono anche molto difficili da attuare, però insomma c'erano degli istituti specifici con questo compito. Sono molto difficili da attuare appunto anche perché il fascismo, ma non solo nelle zone di confine, ma in tutta Italia, non se la sente di espropriare i grandi proprietari terrieri. Non lo fa nonostante le promesse fatte durante la guerra, che la terra doveva andare ai veterani, che la terra doveva andare a chi la lavorava. Il fascismo ha un debito troppo enorme verso i grandi latifondisti italiani che hanno appoggiato enormemente il fascismo della prima ora, e quindi in nessuna parte d'Italia il fascismo espropria delle grandi, insomma, dei grandi spazi, ma invece cerca di concentrarsi su paludi o altre zone diciamo poco coltivate e cerca insomma di fare una politica di popolamento di questo tipo. La fa un po' in vari spazi d'Italia, però nelle zone di confine, in Alto Adige, Trieste, Istria, Gorizia, c'è sempre dietro questa idea dell'italianizzazione e della conquista del suolo che non c'è. C'è questa, proprio questa idea quasi geopolitica, no? Questa idea di difendere e assicurare il dominio italiano tramite la presenza dei coloni. Sì, no, e infatti i piani di esproprio che c'erano nella zona di Merano, di Marlengo, eccetera, vengono subito messi da parte alla fine degli anni 20, esatto. Anche se lì non c'erano di sicuro, diciamo, dei crediti nei confronti degli agricoltori locali, però questo mostra anche come si cerchi, cioè il regime cerchi sempre un dialogo, a mio avviso, con le classi dirigenti locali, infatti, anche di lingua tedesca. Infatti ti ringrazio molto per menzionare questo progetto. Nel 1926 l'Opera Nazionale Combattenti viene incaricata con un progetto di bonifica nella zona tra Merano e Bolzano, che non era come è adesso, ma era paludosa, e quindi c'era questa idea che si potessero costruire 10 borghi, cioè 10 villaggi agricoli per i coloni italiani. La cosa interessante è che il dirigente agricolo dell'Opera Nazionale Combattenti, che ha in mano questo progetto, è molto chiaro nell'intento, cioè lui vuole creare 10 villaggi agricoli abitati da coloni italiani che vengono dalle cosiddette vecchie province, cioè le province che facevano parte dell'Italia già da prima della guerra, e la sua idea è questa, che queste devono essere delle isole di italianità, e che una volta affermatesi queste isole avrebbero poi colonizzato, inglobato le popolazioni attorno, no? Questa era l'idea sua. Il prefetto che comunque era il massimo rappresentante dello Stato italiano, del regime, mandato da Mussolini da Roma a Bolzano, Umberto Ricci, anche lui voleva bonificare questa zona, anche lui voleva italianizzare, ma lui scriveva a Roma dicendo: qui bisogna coinvolgere i contadini del posto. Questa è l'opportunità che non possiamo perdere, per inglobare la popolazione locale nel progetto nazionale, per renderli partecipi alla nazione. Quindi tutti e due vogliono l'italianizzazione, ma chiaramente con idee molto diverse. Ricci credeva nell'assimilazione e nell'inglobare la popolazione locale e renderli più italiani con sussidi statali che li avrebbero aiutati a rendere fertili questi terreni incolti. Mentre il dirigente agrario dell'Opera Nazionale Combattenti, la sua visione è diversa. Lui non crede in questa inglobazione, lui crede nel portare gli italiani. Alla fine non se ne fa niente. Non se ne fa niente perché comunque la popolazione locale, e anche qui ti do ragione sul modo in cui lo Stato italiano si ritrova, il regime fascista si ritrova comunque sempre anche un po' in una posizione di cautela. La popolazione locale va per vie legali e riesce a bloccare il progetto. Long comunque, l'Opera Nazionale Combattenti, ha anche dei problemi finanziari, decide di comunque focalizzarsi su altri progetti e non se ne fa nulla. Però insomma, già il modo in cui ragionavano delle parti diverse in questo progetto ci indica che comunque anche, innanzitutto a livello di regime, non tutti condividevano la stessa visione, che anche comunque nel giro del ventennio le cose cambiavano e che comunque anche la popolazione locale, una certa abilità di reagire e di sforzare lo Stato a comportarsi in modo diverso ce l'aveva nonostante tutto, e ce l'aveva in parte anche per via di questo contesto nazionale, perché da un lato lo Stato si ritrova queste nuove province e uno potrebbe pensare entra a mano dura e cambia tutto, e in un certo senso un po' di questo c'è stato, però sono comunque anche zone dove l'opinione pubblica internazionale, l'opinione austriaca, l'opinione tedesca, la società delle nazioni, insomma, confine orientale, il regno dei serbi, croati e sloveni, che poi diventa la Jugoslavia, cioè un occhio ce lo tengono, sono sempre lì che guardano, che osservano, che mandano giornalisti a parlare con Mussolini, insomma, quindi anche a livello diplomatico, insomma, ci sono pari confronti, quindi questa cosa qui anche influisce. E poi forse c'è anche un'altra cosa, sicuramente l'aspetto internazionale anche secondo me è centrale, no? La stampa tedesca è molto attiva su quello che succede, tedesca, germanica, su quello che succede in Alto Adige. E poi, secondo me, forse a volte si sottovaluta un po' anche la forza del settore agricolo su tirolese, nel senso che se noi guardiamo i dati economici del periodo, la produzione della frutta e del vino collocavano l'Alto Adige ai vertici della produzione nazionale. L'export di vino verso la Svizzera era una voce importante, per cui da parte fascista, a mio avviso, c'era anche quest'idea, come che vantaggio abbiamo a scardinare un sistema economico forte che ci consente di esportare per italianizzarlo, diciamo così, in un contesto difficile, un'agricoltura di montagna, eccetera, eccetera, quando poi questa popolazione non è che ci crei poi così tanti problemi, no? Rispetto, e qui viene il confronto un po' con l'altro confine, sì. Cioè la mano più dura la si ha dall'altra parte, anche perché dall'altra parte ci sono delle organizzazioni che oggi noi definiremmo terroristiche, che ad esempio qui non ci sono. No. Infatti diciamo che soprattutto negli anni 20 fino al 30, ma anche primi anni 30, è il confine orientale che dà problemi a Mussolini. Non è il confine tirolese, diciamo, con l'Austria, è il confine orientale, ed è anche lì dove appunto troviamo organizzazioni slave che fanno proprio una lotta aperta allo Stato italiano. Nel 1930 c'è un attentato a Trieste molto significativo, dove insomma comunque i fautori vengono poi anche condannati a morte. Cosa interessante è che in quel frangente il Popolo di Trieste, il giornale principale fascista di Trieste al tempo, riporta un articolo che comunque di nuovo guarda la Libia. Nella Libia in questo momento la guerra è proprio a un livello molto accanito, sono appena stati creati questi campi di concentramento, e il Popolo di Trieste scrive: ma non è che questo metodo, lo chiama il metodo Graziani, perché il generale in Libia era Rodolfo Graziani, il metodo Graziani forse andrebbe usato anche qui. E poi chiaramente dice no, non possiamo usarlo, perché comunque è territorio nazionale, relazioni internazionali, ma un pensierino, e non solo un pensierino così, ma un pensierino pubblicato nella testata principale di Trieste, insomma ce lo fanno su questa idea qui. Però diciamo che è veramente il confine orientale che dà preoccupazione a Mussolini, che è quello più instabile. E infatti i prefetti da Bolzano mandano i rapporti a Mussolini dicendo: ah, la popolazione locale è calma, si fa i fatti suoi, è interessata allo sviluppo economico, le cose stanno andando abbastanza bene, sono tutti contenti, insomma, chiaramente il prefetto un po' anche vuole mettersi in buona luce, perché non è che poteva scrivere a luce qua, va tutto male ovviamente, però hai assolutamente ragione che le cose non stavano andando malissimo, soprattutto fino al 30, diciamo fino alla crisi economica, no? Poi la crisi economica ha comunque anche le sue conseguenze in Alto Adige e al confine orientale. Il problema per l'Alto Adige emerge con l'Anschluss, con l'annessione dell'Austria alla Germania nazista, perché è a quel punto che Mussolini si ritrova la Germania nazista, che è chiaramente in corso di espansione, al confine del Brennero. Ed è lì che è nel 37-38 che veramente si capovolgono le parti. Nel 37 Mussolini aveva firmato un trattato con la Jugoslavia che comunque chiariva vari quesiti, che comunque diciamo stabilizzava un po' la situazione sul confine orientale. Non c'era più questi movimenti terroristici, diciamo, si erano un po', non voglio dire calmati, ma comunque non erano più attivi allo stesso modo. Anche la Jugoslavia non faceva più lo stesso tipo di pressione, di contrasto con lo Stato italiano, mentre invece è proprio qui in Alto Adige che, insomma, sembra paradossale, visto che comunque Mussolini e Hitler avevano già stretto amicizia dal 36 in poi, che le cose peggiorano dal punto di vista appunto italiano rapidamente, con questa potenza al Brennero, che dal primo momento Hitler aveva detto il suo obiettivo era quello di raggruppare tutti i Volksdeutsche, cioè i tedeschi di razza, all'interno del Reich, ce l'aveva detto, e infatti è anche dopo il 33 che all'interno della provincia iniziano a formarsi e a rafforzarsi questi gruppi nazisti che contrastano appunto lo Stato italiano. E quindi diciamo che nel 37-38 in un certo senso le cose cambiano e il confine che era sempre stato quello problematico diventa quello meno problematico, diciamo. E invece questo confine qui al Brennero diventa quello che dà veramente filo da torcere al regime. Allora, io avrei altre domande, però vista l'ora lascerei lo spazio al pubblico. Ecco, prima ce ne sono già due. Grazie per questa interessantissima presentazione. Rispetto alle ultime cose che sono state discusse, mi chiedevo se un ruolo importante non ce l'abbia anche, cioè un ruolo importante nella gestione diversa dell'Alto Adige, del confine orientale, non ce l'abbia sostanzialmente il razzismo, no? Sì. Che nei confronti delle popolazioni slave ha radici molto più risalenti. Il fatto che si ipotizzi anche solo con una buttata di applicare il metodo Graziani mi sembra significativo anche del modo in cui si guardavano le popolazioni slave, che non era lo stesso con cui si guardavano ai tedeschi dell'Alto Adige. Quindi volevo chiedere. Sì, no, la ringrazio per questa precisazione. Assolutamente, il razzismo nei confronti delle popolazioni slave era molto più forte ed era proprio un razzismo, diciamo, anche che aveva una sua tradizione, ecco. Mentre nei confronti della popolazione di lingua tedesca e ladina non esisteva questa stessa forma di razzismo, cioè esisteva una forma di un senso di diversità, di alterità, di anche incompatibilità. Infatti questa alleanza con la Germania nazista in provincia viene vista malissimo, cioè viene vista come un grandissimo errore da subito, però non c'è questo disprezzo, questo senso anche di inferiorità biologica, intellettuale e così via. Esiste, è molto molto meno forte, non è la stessa cosa. Sì. C'era un'altra domanda qui. Nel 39 ci sono state le opzioni, sì. Che vabbè, sono finite come sono finite, ma la mia curiosità era sapere se, visto che buona parte della popolazione era contadina, sì. Se il regime aveva già progettato aveva già di progetto di sostituzione di questi optanti con contadini italiani. Sì, grazie per questa domanda, alla cui dedico un capitolo intero nel libro. Le opzioni sono una cosa molto interessante perché solitamente nella storiografia, quella locale, diciamo quella molto regionale, che comunque si sofferma molto sul contesto locale e secondo me dovrebbe ampliarsi un po', ampliare un po' gli sguardi. Il ragionamento è questo: il fascismo ha tentato di italianizzare la popolazione locale, ha tentato di portare coloni, non ce l'ha fatta, alla fine decide di fare quasi questo scambio di popolazione, di mandare via i tedeschi e per fare spazio agli italiani. Beh, quando l'Italia entra in questo accordo con la Germania, lo fa innanzitutto per salvaguardare il confine. No? Perché vuole assolutamente assicurarsi il confine al Brennero e quindi decide di fare rendere possibile agli abitanti dell'Alto Adige che volessero di lingua tedesca che volessero farlo, di rendere possibile a loro di cambiare la cittadinanza ed emigrare in Germania ed avere anche comunque, se hanno delle proprietà, avere queste proprietà rimborsate, che comunque è anche questo tutto un discorso molto interessante, perché anche a livello finanziario, insomma. il prefetto Mastro Matei al tempo, cioè lui dice inizialmente, quando iniziano queste prese di contatto, questa idea, pensa che ci sarà più o meno 1000 persone che decideranno di andare in Austria, perché la popolazione è molto radicata, ama la sua terra, non lascerebbe mai la sua terra, comunque stanno buoni, sono contenti, non se ne andranno. E l'Italia, infatti, che comunque faceva parte dell'accordo, non entra nessun tipo di propaganda per cercare di far capire alla gente: restate qui, che noi vi diamo certe garanzie, non fa niente. La parte tedesca nazista, che già aveva questi gruppi nazisti all'interno della provincia, capitanati da persone locali, inizia una propaganda terrificante, proprio a livello locale, in ogni paese, all'interno delle famiglie, per cercare di convincere la gente ad andarsene. No? È solo l'accordo viene preso nella tarda primavera, inizio estate del 39, il voto è a dicembre del fine anno del 39, è solo verso ottobre, novembre, che ci si rende conto che le cose non stanno andando bene e che tantissime persone opteranno per la cittadinanza germanica e per andarsene. Ed è solo a questo momento che ci si inizia a rendere conto, innanzitutto, del problema finanziario per lo Stato italiano in base agli accordi presi con la Germania, e però comunque anche su come far subentrare coloni italiani. E qui appunto l'ente nazionale per le Tre Venezie, che insomma è un ente nato da un altro ente precedente che aveva sempre il compito di rafforzare l'italianità delle zone di confine, che quindi già dagli anni 20 e 30 aveva comunque portato avanti questa missione, che viene incaricato col compito di rilevare le proprietà, no? E passarle a contadini italiani. Poi qui c'è tutto un discorso su chi sono, da dove devono venire questi italiani, come li troviamo, in base a che criteri, che tipo di sovvenzioni riceveranno. Comunque, insomma, poi molte cose vengono concepite in modo simile come erano state concepite in Libia. Infatti, qui finisco con un altro piccolo aneddoto. Nella corrispondenza dall'Alto Adige, in questo periodo delle opzioni, insomma, c'era molta censorship. Quando lo Stato va a vedere la posta la censura. La censura, grazie. C'era molta censura, no? E tra queste lettere censurate ne ho trovata una che diceva, dove un certo, se non mi ricordo, Antonio, che sarà stato un Anton, immagino, che scriveva a sua sorella, e lui diceva: secondo me queste popolazioni che adesso vanno in Germania troveranno una vita molto più difficile che non gli italiani che sono andati in Libia, nonostante le condizioni siano molto diverse. Altro non c'è, però comunque anche in questo contesto dove questi optanti sarebbero poi andati in Germania, c'era chi aveva in mente o si ricordava i 20.000 dell'anno precedente e aveva collegato questi spostamenti di popolazioni l'uno con l'altro. Ci sono altre domande, riflessioni? Abbiamo ancora 5 minuti o siamo già oltre? Siamo forse già oltre. Ma una cosa sola volevo, più che chiederti, così invitarti a sì. Che è una parte forse, diciamo, quella che utilizza più, anche, non soltanto, però anche la documentazione orale, le testimonianze, sì. Eccetera. Cioè è interessante vedere come ci sia una differenza tra i piani statali, istituzionali, e chi poi questi piani deve sì. Interpretarli, o coloro che diventano strumento di questi piani, quindi sia i funzionari, sia i coloni, sì. E questo mi sembra che sia molto simile con quello che succede ad esempio nell'Agro Pontino, cioè sì. Forti tensioni tra i coloni e l'Opera Nazionale Combattente o comunque le istituzioni dello Stato. Sì, in effetti questa è un'altra tematica importante del libro, grazie Andrea per averla sollevata. Cioè, questa riflessione su il modo in cui la logica dei coloni combaciava con i rappresentanti dello Stato me lo sono posta proprio perché volevo interrogare questa questione di chi è fascista. Cioè, questi coloni erano fascisti, com'è che dobbiamo categorizzare queste persone che alla fin fine spesso erano delle persone in difficoltà economiche, che queste scelte le facevano per ragioni economiche più che ogni altra ragione, che però si ritrovavano per forze di cose come emissari dello Stato in una zona di confine, cosa che comunque non era il caso nell'Alto Pontino. Però comunque anche lì la logica delle due parti spesso non combaciava. E faccio un esempio così rapido, che è quello dell'idea dell'emigrazione. No? La cosa più importante per il fascismo era radicare le famiglie in queste zone di confine e anche in Libia, proprio per rafforzare la sovranità italiana. Però i coloni stessi, cioè, loro partivano con una concezione diversa di cosa poteva essere l'immigrazione, e cioè con l'idea di andare all'estero, comunque spostarsi per migliorare la propria condizione, per migliorare la condizione dei propri figli, ma anche forse per poter poi tornare nei propri paesi arricchiti e per poi prendersi un pezzo di terra nei loro paesi, no? Perché in fondo, cioè, la storia italiana era, soprattutto insomma, negli anni 20-30, era una storia condizionata dall'esperienza di migrazione, perché migliaia di italiani erano andati all'estero e questo tipo di questo ragionamento sull'emigrazione lo si vede moltissimo sia nelle testimonianze ancora ora, quando insomma, ho avuto la grande fortuna di parlare con alcune di queste persone, e che non nelle lettere, anche queste appunto per esempio dalla Libia censurate per cercare di capire lo stato d'animo dei coloni, che scrivevano a casa e dicevano: ah, qua è molto meglio che in Germania, ah, in Belgio non ci torno più, ah, però l'America è un'altra cosa. E quindi insomma, diciamo, i coloni, la loro visione del spostarsi, del cercare opportunità, sì, erano emissari dello Stato, ma diciamo, l'obiettivo ultimo era spesso diverso. Quindi, scusi, posso? Prego, prego. Quindi erano, diciamo, i più motivati dalla motivazione del migrante, diciamo, alla ricerca della terra promessa, sì, diciamo, a dire. Sì, sì. E quindi è meno motivazione ideologica. Beh, diciamo, e di essere, che ne so, portatore di un altro modello, di un altro. Sì, beh, c'era chiaramente anche chi questo sentimento nazionale lo sentiva molto e diciamo lo portava in moro. C'è anche da dire che in ogni caso i coloni arrivavano con una concezione, con un senso di se stessi, con un senso di se stessi appunto, come sopportati dallo Stato. Cioè, anche questa qui comunque è un'esperienza molto diversa da quella del migrante. Il migrante va e deve comunque fare riferimento spesso a tutto un network, una catena migratoria che si è instaurata nei decenni con gli altri migranti e così via, no? E questo è il modo in cui il migrante si muove. mentre il migrante che va nelle terre di confine, che va in Libia, va comunque spesso, soprattutto in Libia, con proprio un supporto finanziario notevole da parte dello Stato, ma anche un supporto organizzativo e soprattutto un supporto proprio, come dico, a livello di un senso di se stessi, come a noi questa terra ci appartiene e abbiamo la nostra ragione di essere qui. Questa è terra italiana, sovranità italiana, siamo qui per difenderla, però comunque non andiamo in una terra straniera che, dove dobbiamo adattarci, muoverci in un certo modo e così via. I requisiti di soluzione di questi coloni? Allora, si preferivano chiaramente le famiglie, cioè il grande progetto in Libia, cercano famiglie, con almeno due figli maschi adulti, che poi crea tutta un'altra problematica perché poi gli mancano le donne e questi villaggi sono poi a maggioranza maschili, però per andare avanti ci servono le ragazze, in modo che questi giovani uomini, figli maschi, qualcuno devono sposare per poi mandare avanti, quindi già lì c'è un po' un problema. Non dovevano essere braccianti, però alla fine lo sono perché lo Stato non riesce a trovarne, non riesce a trovare abbastanza gente che rinunci al proprio pezzo di terra per andare a cercarne uno in Africa. E devono anche essere, cioè l'idea era quella, iscritti al partito, ma anche lì cioè, assolutamente non si riesce a trovare coloni, perché appunto diciamo contadini iscritti al partito ce n'erano poi pochi. Nulla tenenti, braccianti e così via. Ultima domanda, sì. Ci sono stati degli obiettori di coscienza di coloni che hanno visto la situazione, la persecuzione nei confronti della popolazione locale e poi è venuto un moto di coscienza? Ma veramente quelli non li ho trovati, ma comunque in Libia è un po' poi anche difficile perché nel 40 l'Italia entra in guerra, la guerra inizia veramente terra africana, quindi questi qua arrivano, questo primo grande scaglione arriva a fine ottobre del 38, ne arrivano altre nel 39, questi non fanno neanche in tempo a fare due raccolti che c'è la guerra, no? Però già prima c'erano stati degli insediamenti più limitati, sempre a supporto dello Stato, dove in un caso due terzi dei capi famiglia mandati lì inizialmente chiedono il rimpatrio. Chiedono il rimpatrio perché comunque si rendono conto, cioè la ragione non la so, ma immagino che abbiano visto le condizioni difficili, che abbiano forse visto anche il modo in cui erano isolati e comunque chiedono il rimpatrio. Obiettore di coscienza non tanto, ma c'è nelle interviste chi diceva ma sì, comunque forse non era giusto andare lì, però comunque il regime stava facendo tanto, si stavano creando appunto questi nuovi giardini, tutte queste coltivazioni e quindi l'Italia ha lavorato, no? Questa idea di un'Italia che va in Africa a lavorare, a trasformare, a creare strade, pozzi e così. Se posso, una cosa legata a quello che dicevi tu, questo ricorso all'italianità, no? Sì. Che appunto si sa che dietro c'è il tema della nazionalizzazione, dell'italianizzazione, e è anche un po' furbo talvolta, no? Cioè molte volte lo si mette dentro, sì, perché si sa che è una carta buona da giocare, certo. Nel senso che quando si dice dovete aiutarci, siamo in difficoltà, noi siamo qui a difendere, sì, l'italianità, si sa che si gioca, perché anche mi è capitato di trovare della corrispondenza degli anni 50, sì, di una famiglia, di un signore che stava mettendo in piedi una cooperativa per costruirsi la casa, lui con altre famiglie, e voleva il terreno, il finanziamento. E nella lettera cosa scrive? Siamo tutte famiglie italiane, siamo qui a difendere la presenza italiana. Cioè si sa, sì, in maniera molto furba e strumentale qual è il tasto giusto da schiacciare. Quindi è difficile anche capire dove c'è la l'investimento ideologico, dove c'è la furbizia anche, certo, no? Certo. No, però appunto come la furbizia è però anche un l'aver capito l'adattamento, che era essenziale, che questa argomentazione comunque era essenziale, soprattutto nella costruzione della zona industriale di Bolzano, è un continuo, dateci questi sussidi, vi porteremo lavoratori italiani, e saranno lavoratori veramente italiani, non questa. Va bene, direi che possiamo fermarci qua, grazie Roberta.